America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, grande happening ieri sera allo Staples Center a Los Angeles, i Grammy Awards, gli Oscar della musica, grandi premi, il premio per il miglior album dell'anno è andato alla band canadese degli Arcade Fire con The Suburbs. Sentiamoli. Da una parte i Grammy Awards, dall'altra notizie importanti, soprattutto sul fronte del bilancio. Fra poche ore il presidente Barack Obama consegnerà il suo bilancio federale per il 2012, l'anno fiscale 2012 che comincia a settembre, al Congresso. Obama ha proposto dei tagli, promette 1.100 miliardi di dollari di tagli su base decennale, ritiene che ben 400 miliardi di dollari possano derivare dalla sua promessa di congelare le spese federali per 10 anni, altri tagli verranno da risparmi non meglio definiti per ora di 730 miliardi di dollari. Ci sono dunque dei dubbi, perché a questo punto il disavanzo pubblico federale americano raggiunge oltre il 10% del PIL, del prodotto interno lordo, è una cifra esplosiva, il debito è esplosivo, se gli Stati Uniti non controlleranno questa esplosione della spesa e del disavanzo, si troveranno in difficoltà piuttosto serie, in una posizione secondo me che non sarà molto diversa da quella in cui si trovano oggi paesi come la Spagna, l'Irlanda e qualcuno dice anche l'Italia. In questo bilancio, lo vedremo fra poco, Barack Obama vuole aumentare alcune spese nel breve termine, ma i repubblicani resistono e questo pone un altro problema a breve termine, il problema di una possibile paralisi dello Stato se entro il 4 di marzo non si raggiungerà un accordo preliminare fra le due fazioni, quella repubblicana e quella democratica. Proprio ieri John Boehner, il presidente della Camera, ha parlato cercando di rassicurare. Sentiamolo. And while we believed we met our commitment that we made in the pledge to America. Boehner nega di voler fare muro contro muro, ma chiede tagli alla spesa. Pentagono, c'è un aumento, 538 miliardi di dollari contro i 516 che ci si aspettava. C'è invece un risparmio sulle guerre, complessivamente costeranno 118 miliardi di dollari invece dei 156 miliardi di quest'anno. Perché? Perché in particolare le due grandi guerre, quella in Afghanistan e quella in Iraq, costeranno di meno, o meglio, quella in Afghanistan continuerà a costare parecchio, 107 miliardi di dollari, ma quella in Iraq scenderà a 11 miliardi di dollari. Complessivamente il bilancio del Pentagono, grazie a questi risparmi sulla guerra, scenderà dai 674 miliardi per l'anno in corso ai 656 stimati per il 2012. C'è anche una richiesta di aumento di spese per gli aiuti all'estero. Ecco, questa secondo me è una voce molto importante, 54,9 miliardi di dollari richiesti dall'amministrazione, richiesti dal Dipartimento di Stato, sono stanziamenti importanti nel momento in cui abbiamo il Medio Oriente in esplosione, il Nord Africa in una possibile fase di rivolgimento. Queste situazioni, dicevo, esplosive vanno accompagnate da importanti pacchetti di aiuti finanziari, di aiuti economici. Bisognerà vedere se anche su questo i repubblicani resisteranno. Lady Gaga, oltraggiosa, pagana, politically incorrect, come sempre, ci fa sentire in anteprima nella performance di ieri sera. Torniamo ovviamente ai Grammy Awards, il grande evento della serata. Ci fa sentire, vi dicevo, Born This Way, una nuova canzone che ha già sollevato qualche polemica, vedremo dopo perché. Ma come nasce, come è born Lady Gaga? Beh, nasce da un uovo, perché ieri sera è arrivata sul tappeto rosso dello Staples Center di Los Angeles, chiusa in un enorme uovo azzurrino che era appoggiato su una portantina trasportata da schiavi. Ecco, Lady Gaga, vi dicevo, ci fa ascoltare questa canzone, ma c'è polemica. Perché? Beh, perché c'è un'accusa di plagio. Si dice che la canzone di ieri sera sia identica, o comunque molto simile, a una canzone di Madonna, Express Yourself. Atmosfera di Happening, dunque, a Los Angeles. Pensate, Cielo Green si è presentato vestito da pollo, attenzione, non da galletto, proprio da pollo, da pollastro. Aveva tra l'altro al suo fianco l'attrice bellissima Gwyneth Paltrow, e sentiamolo con una canzone celeberrima che vi ho già fatto ascoltare in un'altra puntata, quando abbiamo parlato di Assange, il quale riceveva in qualche modo un messaggio da questa canzone che ha vinto il Grammy Award per Best Urban Alternative Performance, la miglior canzone urbana per performance alternativa. Fra le star di sempre, indimenticabili, Bob Dylan, che ha cantato una versione acustica di Maggie's Farm, un suo brano soul del 1965, Mick Jagger, che, pensate, è intervenuto per la prima volta sul palco dei Grammys, ha cantato con il cantante americano Rafael Sadiq, ha reso omaggio a Solomon Burke. Fra le altre canzoni che hanno vinto premi, beh, cominciamo con il miglior album rap, l'ha vinto Eminem con Recovery, sentiamolo, Not Afraid. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, giornata importantissima, perché la canzone del giorno di oggi è la migliore canzone del 2011, che ha vinto ieri il Grammy Awards, Need You Now, del gruppo Lady Antebellum. L'avevo fatta sentire in passato, ascoltiamola. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.